Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Eccoci, cominciano ad esserci le telecamere fisse. Cominciano ad esserci le telecamere fisse con Stefano Baldini. Stefano Baldini nel tratto finale. Laura Fogli. Siamo vicini, sta per entrare, Panathinaiko è a vista, Stefano Baldini, il suo ingresso al Panathinaiko nell'ultima gara della Olimpiade 28, Stefano Baldini, attenzione che è lunga ancora, perché c'è un giro, c'è uno stadio da compiere, gli antichi chiamavano stadio, 198 metri dell'ultimo giro, sembra andare ancora velocissimo, un gran finale per lui che ha ottenuto un miglioramento del tempo, Stefano Baldini, ultimo spunto per gli ultimi titoli dei giochi olimpici, Panathinaiko, dove aveva vinto Marco Galliazzo. Stefano Baldini entra per primo dietro un Matt Kefleziki che non ha mollato del tutto, ma qualcosa sì, pochi metri ancora, vai Stefano, ci siamo, Stefano metri. Stefano Baldini, pochi metri, la vittoria è tutta sua, ultima medaglia ed è d'oro di questi giochi olimpici, la maratona, una delle gare simbolo dei giochi olimpici, è italiana, va a Stefano Baldini, bravo, medaglia d'oro la sua, uno strillo formidabile, non si immaginava di poter raccontare questo perché c'erano altri favoriti, lui era fra i co-favoriti, ci pensava un poltergeist, non è bastata, non ce n'è stata per nessuno e la medaglia d'oro è andata a Stefano Baldini. Ci sono momenti in cui tutta la vita d'atleta ti scorre di fianco, braccato da una camera car che ne segue il percorso, e il sogno di una carriera prende forma in mezzo a urla di gioia e tripudio, come la meravigliosa vittoria che abbiamo appena ricelebrato, quella di Stefano Baldini alle Olimpiadi di Atene del 2004. Una vittoria nella gara simbolo dei giochi, quella corsa che prevede 42 chilometri e 195 metri di sudore, fatica e lotta. Una gara che è la rievocazione della corsa di Filippide dalla città di Maratona all'Acropoli di Atene per annunciare la vittoria sui persiani nel 490 a.C. C'è una magia speciale che circonda l'evento olimpico e che lo rende così unico. È la metafora straordinaria che fa della vita, riuscendo a racchiudere al suo interno tutto lo spirito e il fisico che fa parte dell'essere umano. Una magia cui si aggiungono il fascino e la tradizione della storia antica e la sua capacità di evocare miti e leggende. Una combinazione perfetta che rende i giochi olimpici più di una semplice competizione mondiale, ma la realizzazione di una vita, un'emozione unica e migliaia di storie da raccontare e condividere. C'è voluta la testarda follia di un uomo per regalare al mondo questo straordinario evento. Un uomo, una visita e un aiuto inaspettati, senza i quali forse il sogno non si sarebbe mai realizzato. Una storia, dunque, che Destini Incrociati cercherà di raccontarvi, mantenendo quello spirito di saggezza che ne ha contrassegnato la nascita e ne ha scritto le pagine. A cominciare dalla prima. Principi fondamentali dell'olimpismo. Articolo 1. L'olimpismo è una filosofia di vita che esalta e unisce in un insieme equilibrato le qualità del corpo, della volontà e della mente. Unendo lo sport con la cultura e l'istruzione, l'olimpismo cerca di creare uno stile di vita basato sulla gioia dello sforzo, sul valore educativo del buon esempio, la responsabilità sociale e del rispetto dei principi etici fondamentali. C'è una strana aria che circonda la Francia e i parigini di fine Ottocento. Un'aria di rabbia mista a decadenza che la perseguita da quando nel 1789 aveva sconvolto il mondo con la rivoluzione e i suoi nobili decapitati. Un'aria densa di brutti presagi e antichi splendori, in cui rapide ascese imperiali e brusche sconfitte si alternano, lasciando il segno nelle teste e nei corpi dei suoi abitanti. Era già successo con Napoleone e Bonaparte a inizio secolo. Verso la fine arriverà la pesante sconfitta contro i tedeschi nella guerra franco-prussiana, che in poco meno di un anno, dal 19 luglio 1870 al 10 maggio 1871, sancirà il passaggio dalla Seconda Repubblica di Napoleone III alla Terza Repubblica francese. Siamo a Parigi, nel primo gennaio del 1863. Una famiglia aristocratica ha un motivo in più per festeggiare il Capodanno. Poco dopo la mezzanotte, infatti, è venuto alla luce un bambino vivace e buffo, desideroso di fare compagnia agli altri tre che girano per casa. Il padre, Charles-Louis Frédy, barone di Coubertin, e la madre, Marie-Marcel Gigot de Crisenois, hanno deciso. Il loro quarto figlio si chiamerà Pierre Frédy. È il nostro uomo di oggi, Pierre Frédy de Coubertin. Pierre Frédy de Coubertin. Piccolo di statura, con occhi vivaci e una voce acuta e stridula e un sorriso malizioso dietro i suoi baffi grandi. Ecco come verrà descritto più avanti, in età adulta. A parte i baffi, è un quadro che ben descrive anche il giovanissimo de Coubertin, il quale fin dai primi anni deve fare i conti con il ruolo che il lignaggio gli impone. Un ragazzo figlio di aristocratici, destinato a finire in accademia militare oppure in una scuola gestita da religiosi. Il padre, pittore di una certa fama e monarchico convinto, alterna quadri a sfondo mistico a lunghi monologhi in cui sostiene la legittimità della candidatura al trono di Henri, conte di Chambord, al posto del Napoleone III, che effettivamente prenderà il potere. Circondato da pitture timorate e discorsi carichi di restaurazione, Pierre de Freddy, piccolo barone di Coubertin, deve vedersela anche con gli eventi che travolgono la Francia e la scuotono. La guerra contro i prussiani, come abbiamo detto, ai cui echi inquietanti e lontani si aggiunge una conseguenza improvvisa e ben più prossima. E la Comune di Parigi, la rivolta dei cittadini francesi che per ben 3 mesi, in un clima di stupore generale, rovescia il governo e impone una politica democratica socialista, seminando provvedimenti che sembrano sfidare il tempo tagliandolo come una lama affilata. L'esercito permanente viene eliminato, vengono armati i cittadini, Stato e Chiesa vengono separati, l'istruzione diventa gratuita, i magistrati eleggibili, i funzionari pubblici e i membri del Consiglio retribuiti con salari poco superiori a quelli degli operai. Una piccola rivoluzione dall'enorme potere deflagrante, cui seguirà una reazione altrettanto dura dei vecchi poteri residenti a Versailles. Parigi verrà domata, ma non senza prezzo, con l'esecuzione e la fuga di migliaia di cittadini. Per chi è rimasto, come per il nostro Freddy, c'è tanto su cui riflettere. Le strade dei francesi, che non ho visto mai, ma se i sogni non li avessi già completamente spesi, quello che sai. Nelle 15.000 pagine lasciateci in eredità da Pierre de Coubertin, compresi i 1.400 tra libri, articoli e fascicoli, non c'è traccia di come gli eventi della sua giovinezza pesarono sulle sue scelte. Ma i fatti non lasciano dubbi. Il giovane francese non vuole intraprendere la carriera indicatagli dal padre ed è determinato a seguire la propria volontà. La sua ribellione non possiede né armi né prevede scontri all'ultimo sangue. Pierre è un giovane studioso e alla scuola di gesuiti che frequenta è uno degli allievi migliori. In più è un ufficiale di accademia d'élite capace di mettersi in luce. Ma non ci sono né chiese né truppe davanti al suo naso. C'è l'educazione, intesa non come una serie di semplici regole di convivenza, ma più come una forte combinazione di due elementi, lo sport e la libertà. Principi fondamentali dell'olimpismo. Articolo 2. L'obiettivo dell'olimpismo è quello di mettere lo sport al servizio dello sviluppo armonioso dell'uomo, al fine di promuovere una società pacifica, interessata alla salvaguardia della dignità umana. Brown and Flashman are fighting, sir. So I can see. You know why? Something to do with young Arthur, sir. You know, the new boy. Shall I go and stop it, sir? Nel 1857 Thomas Hughes pubblica un libro intitolato Gli anni di scuola di Tom Brown. Quello che avete sentito è uno spezzone del film che ne è stato tratto di recente. L'opera è la testimonianza più verosimile del lavoro svolto dall'educatore storico Thomas Arnold, direttore della scuola inglese di rugby negli anni che vanno dal 1828 al 1841. Lavoro che George Richmond, pittore e ritrattista dell'epoca, sintetizza in maniera mirabile. Ciò che Arnold ha fatto per le scuole pubbliche è stato quello di modificare e ampliare, in misura pari a una rivoluzione, gli obiettivi e gli oggetti che queste istituzioni si propongono. Prima del suo tempo, l'oggetto dichiarato delle scuole pubbliche è stato quello di impartire apprendimento, sistema, e la disciplina era sottomessa a tale scopo. Arnold ha una visione molto più ampia degli oggetti di istruzione. Si rese conto che imparare era solo una parte di formazione e che alla fine il grande scopo dell'educazione è la formazione del carattere. L'ideale era impostato a fare dei ragazzi non solo degli studiosi, ma dei signori cristiani. Per Pierre de Coubertin, il libro di Thomas Hughes, scoperto in un viaggio in Inghilterra nel 1883, è una specie di rivelazione. Mentre in una delle sue tappe analizza il programma di educazione fisica della scuola di rugby, una strana idea comincia a farsi largo nella sua mente. Un'idea che esalta il ruolo dello sport nella formazione del carattere e che lo trascina fino a considerarlo un elemento fondamentale nella ritrovata grandezza dell'impero britannico. Da bravo studioso, il francese non si limita però esclusivamente ad assorbirne i principi, ma ne fa una lettura critica, evidenziandone i limiti, come lui stesso scriverà. Nel suo lucido pensiero e nella sua umanitaria e democratica concezione della società, il rigido ed anacronistico sistema di classe anglosassone, ridicolmente arbitrario e frivolo, è troppo presente in campo sportivo. La distinzione di classe non dovrebbe aver luogo nello sport. Il futuro del barone comincia a prendere forma. Dedicherà la sua intera vita all'educazione, perché è questo quello che vuole veramente, e utilizzerà il suo tempo per ricercare un metodo, una filosofia, un esempio che possa dare un segnale al mondo. Una grande ambizione, saldamente tenuta coi piedi per terra dal suo inesauribile impegno nell'analisi e nello studio. Ci sarà bisogno di un aiuto e di un po' di fortuna, ma c'è un'intuizione ad illuminare la strada, e le mani del barone sono serrate e ben salde intorno ad essa. Tutto lo sport per tutte le persone. Questo motto sarà senza dubbio criticato come una fantasia utopica, ma io non mi curo di questo. Gli ho dedicato una riflessione considerevole e credo che sia giusto e possibile, al punto che io dedicherò la forza e gli anni che mi rimangono per assicurare che esso prevalga. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time, tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Principi fondamentali dell'Olimpismo, articolo 3. Il movimento olimpico è l'azione concertata, organizzata, universale e permanente, effettuata sotto la suprema autorità del Comitato Olimpico Internazionale, di tutti gli individui ed entità che si ispirano ai valori dell'olimpismo. Esso copre i 5 continenti, raggiunge il suo apice con l'incontro di atleti del mondo alla grande festa dello sport, i Giochi Olimpici. Il suo simbolo è 5 anelli intrecciati. La lunga strada intrapresa dal giovane barone è ancora lontana dal traguardo, ma è nella direzione giusta. Quello che Coubertin intravede nel suo viaggio è una luce che alimenta in maniera costante il suo pensiero e che lo porterà qualche anno dopo a pubblicare il libro L'educazione in Inghilterra, nel quale la sua teoria comincia a prendere corpo. Ciò che il barone realizza con nitidezza nei campi da gioco della scuola di rugby è come lo sport organizzato possa creare forza morale e coesione sociale mantenendo in equilibrio corpo e mente. Un approccio alla formazione che il mondo pareva aver lasciato ai tempi della sua prima apparizione, i tempi dell'antica Grecia. Ultima edizione del giornale. Nuove interessanti scoperte venute alla luce durante gli scavi nell'antica Olimpia. Ultima edizione. Ecco il destino che arriva in soccorso del barone. Viene dal Peloponneso nord-occidentale e presto anche in Rue des Odinots numero 20, la residenza parigina di De Coubertin, ne arrivano gli echi. Olimpia, la città sede dell'amministrazione dello svolgimento dei giochi olimpici, è di nuovo sotto gli occhi del mondo. Dopo i primi scavi effettuati da archeologi francesi nel 1829, sono i tedeschi una quarantina d'anni dopo a riprendere in mano l'opera, riportando alla luce, oltre alla famosa statua di Hermes col piccolo Dioniso, opera dello scultore Parassitele, diverse altre statue, altari, oggetti votivi in bronzo e in marmo. Per il nostro Pierre è molto più di un segnale. I valori dell'antica Grecia rappresentano infatti il compimento ideale del pensiero del francese. Il corpo e la mente, i due fattori chiave del suo pensiero, sono come due elementi che devono integrarsi in un tutto armonico per ottenere l'euritmia, l'equilibrio che fu raggiunto nell'antica Olimpia, dove gli atleti con i loro fisici statuari gareggiavano coraggiosamente per la vittoria desiderata di fronte a statue con corpi d'atleta, sui cui volti i grandi scultori avevano scolpito lo spirito del divino. Il bello e il buono che si fondono, dunque. Il risultato è, per dirla con le parole del barone, un'ideologia in cui convivono. Il culto dell'impegno, il disprezzo del pericolo, l'amor di patria, la generosità, la cavalleria a contatto con le arti e la letteratura. Tutta questa teoria, questo classicismo, questi valori e ideali in bella mostra, contengono derive decisamente pericolose. Chiunque potrebbe rimanere stregato e perdere di vista il lato pratico, non il nostro protagonista. L'accorata difesa del barone per l'educazione fisica è basata su preoccupazioni pratiche. Pensa infatti che gli uomini che hanno ricevuto educazione fisica siano meglio preparati a combattere in guerra e maggiormente in grado di vincere conflitti come la guerra franco-prussiana, in cui la Francia era stata umiliata. Inoltre, vede lo sport come via democratica, capace di scavalcare le barriere sociali, evitandone però la mescolanza. Ecco perché nel 1888 Pierre Frédy fonda il Comitato per la Propaganda dell'Esercizio Fisico e si lancia in una serie di congressi, rapporti epistolari e articoli il cui scopo è quello di divulgare il suo credo e dare attuazione alle sue idee. Inizia così per De Coubertin un periodo di intensi spostamenti e frenetiche attività. Attività che incontreranno spesso difficoltà e rimandi, che lo costringeranno a rivedere i suoi piani e ad aspettare il momento propizio per lanciare il suo guanto di sfida al mondo sotto forma di nuova educazione mondiale. Una riforma di cui ha ben chiari in testa le prerogative e i limiti. La tolleranza è per eccellenza una virtù negativa. Noi dovremmo cercare un principio superiore che unisce tutta la generosità della tolleranza senza la sua abituale freddezza e tutta la fertilità della fiducia senza le sue restrizioni o la frequente intransigenza. Tra la tolleranza e la fede giace il rispetto reciproco ed è precisamente di questo che le società democratiche abbisognano. Stiamo andando troppo oltre per chiedere la fratellanza tra gli uomini. La fraternità è per gli angeli. Il rispetto reciproco è qualcosa che può essere chiesto all'umanità senza essere troppo ambiziosi. Chiedere alle persone di amarsi l'un l'altra è infantile. Chiedere loro di rispettarsi l'un l'altra, tuttavia, non è un sogno utopico. Ci sarà bisogno del destino e di un incontro per realizzare il sogno del barone. Destino che avrà l'espressione e i lineamenti di un curioso letterato greco, combattuto tra l'amore per il suo paese e la realtà che lo circonda. Tra poco, a Destini Incrociati. C'è gente senza cuore in giro per la città. C'è gente senza cuore in giro per la città. Di notte bruciano persone e cose solo per vedere che effetto fa. Portami la giacca ed il coltello. Portami la giacca, portami il coltello. E vivi dal lupo e vestiti come un agnello. Destini incrociati. Destini incrociati è in Francia, alla fine del XIX secolo, sulle tracce di un barone francese, Pierre-Frédy de Coubertin, un aristocratico che ha preferito la via dell'educazione alla carriera militare. Dopo anni di studi e riflessioni dedicati alla pedagogia e in seguito al ritrovamento dei resti di Olimpia, la città in cui si svolgevano gli antichi giochi, un pensiero comincia a fare breccia nella mente del nostro protagonista. Un pensiero molto ambizioso. Principi fondamentali dell'Olimpismo, articolo 4. La pratica dello sport è un diritto umano. Ogni individuo deve avere la possibilità di praticare sport, senza discriminazione di alcun genere e nello spirito olimpico, che esige mutua comprensione con spirito di amicizia, solidarietà e fair play. Negli anni che seguono la fondazione del Comitato per la Propaganda dell'Esercizio Fisico, la tentazione di riportare alla luce i giochi olimpici è molto più di un'idea strampalata. È un'occasione cui mancano per ora i presupposti. Ci sono stati tentativi di riportare alla grandezza originaria questo evento. Uno in Svezia, a Ramlösa. Altri in Inghilterra, ai confini del Galles, e poi a Birmingham, Wellington. Il più ardito rimane quello realizzato da Evangelos Zappas nella natia Grecia, con ben 4 edizioni. Ma sono giochi che mancano di una caratteristica fondamentale, un vero ideale alle spalle. È comunque indubbio che l'evento creato da Zappas sia riuscito a suscitare curiosità e simpatia grazie al coinvolgimento della patria delle Olimpiadi. Non è un caso, avrà pensato il barone più avanti, perché proprio dalla Grecia arriva il nostro secondo protagonista di oggi. Il suo nome è Dimitrios Vikelas. Dimitrios Vikelas. Mi ritengo un imperfetto uomo d'affari e un imperfetto uomo di lettere. Ecco come si definisce lo stesso Vikelas in maniera sintetica e ironica. Ma colui che irrompe nel nostro racconto è molto più di questo. È un uomo che si ritroverà in mano le sorti di una vita e la possibilità di cambiare la propria. Alla fine del 1800, Dimitrios Vikelas da Ermopoli è un uomo con rughe profonde e tanti avvenimenti alle spalle. Avvenimenti che sono cominciati fin da bambino, a causa della vita movimentata a cui l'attività di commercio dei genitori lo ha costretto. Storie e persone che evidentemente lasciano una traccia su di lui, influenzandone il carattere. Dimitrios impara in fretta, osservando il padre. Ha anche una buona propensione per il mestiere, ma appena può, appena ha un ritaglio di tempo, si butta sui libri, leggendo e divorando pagine. Gli piace leggere. Gli piace la letteratura e adora il suo paese. Giovanissimo, traduce in greco Esther, l'opera del drammaturgo e scrittore francese Jean Racine, e il suo nome comincia a circolare, proprio come le merci di cui si deve occupare. La vita di Dimitrios Vikelas prende una direzione più precisa qualche anno dopo, quando, costretto dall'attività di famiglia, si trasferisce a Londra per lavorare come contabile dallo zio. Qui il greco capisce che i numeri saranno sempre solo un lavoro, nulla di più, perché il resto, anzi la maggior parte del giorno, è tempo dedicato alla letteratura, allo studio, alla comunità greca di Londra, al British Museum, che si trova vicinissimo alla sua abitazione. Poi la sera tocca alla scrittura, intrapresa in mezzo a qualche difficoltà, ma quanto mai apprezzata, anche grazie a piccoli espedienti. I miei studi notturni iniziano alla luce della mia candela. Quando arriva l'inverno, il mio buon copriletto, regalo di mia mamma, è sempre utile. Metterlo sopra i miei vestiti mitiga in parte l'assenza di una stufa. Scrivo finché le mie dita sopportano il freddo, e quando ho troppo freddo, mi metto a letto e mi limito a leggere. L'incredibile erudizione acquisita e una raccolta di poesie aprono a Vikelas le porte dei circoli intellettuali. Lo studioso greco ha una passione particolare, oltre al grande amore per i classici, un legame profondo e incondizionato con il suo paese, coltivato e cresciuto, frequentando la comunità greca di Londra, con quell'orgoglio pressato nelle valigie degli emigranti. Perché, come dice lui stesso, la Grecia è un'idea culturale e spirituale, non certo e non solo, un mercato e basta. E quell'idea, nella mente di Dimitrios, deve tornare a brillare, come ha fatto in passato. C'è un altro spostamento nel destino di Dimitrios Vikelas, uno spostamento fondamentale che lo dirotta nella terra del barone de Coubertin, in attesa che il destino chiuda il ciclo. Per il greco la Francia è tuttavia una tappa dolorosa. Vi è costretto a dimorarvi a causa della malattia psichica che colpisce la moglie Calliope, sua sposa da qualche anno. Il Vikelas che approda a Parigi è un uomo di letteratura dalla fama ormai consolidata. Opere, rapporti con intellettuali e uomini di potere, attività di propaganda a favore della Grecia ne fanno un uomo di statura riconosciuta. Con un pensiero fisso, però, la sua amata penisola. Traduce Shakespeare sforzandosi di trovare un linguaggio semplice, diretto alla maggior parte di popolazione possibile. Appoggia la lotta greca all'indipendenza, che nonostante la vittoria sui turchi a inizio secolo, è ancora schiava delle grandi potenze europee. Si reca in Spagna, Austria, Svizzera e Costantinopoli. Scrive Lucis Laras, la sua opera più importante, una storia che si svolge durante la guerra di indipendenza e che raccoglie ottimi consensi. E compra casa ad Atene. Poi un giorno di giugno del 1894 finisce in Rue de Odinot numero 20, la casa del barone Pierre Frédy di Coubertin. Principi fondamentali dell'Olimpismo, articolo 5. Riconoscendo che lo sport si verifica nel quadro della società civile, le organizzazioni sportive all'interno del movimento olimpico hanno diritti e doveri di autonomia, che includono stabilire e controllare le regole dello sport, determinare la struttura e la governance delle loro organizzazioni, che godono del diritto di elezioni, libero da qualsiasi influenza esterna, e la responsabilità di garantire che i principi della buona governance vengano applicati. Avevamo lasciato Pierre de Coubertin alle prese con il suo sogno, quello di realizzare i primi giochi olimpici moderni. Negli anni a cavallo tra il 1889 e il 1894, l'attività del barone si è intensificata fino a quasi diventare frenetica. I pezzi del puzzle sono stati messi insieme. Di certo i giochi dovranno avere due caratteristiche fondamentali. Dovranno essere internazionali per quanto possibile e dovranno essere rivolti ai dilettanti. Il resto verrà con il tempo. Bisogna solo trovare il momento giusto e avere un pizzico di fortuna. Intanto la sua filosofia olimpica si arricchisce di idee. Lo sport dovrebbe essere concepito come un generatore di arte e un'opportunità per l'arte. Egli dà risalto alla bellezza, dato che produce l'atleta una scultura vivente, ma è inoltre un'occasione di bellezza per gli edifici che gli sono dedicati e gli spettacoli e le feste che produce. L'arte antica sfruttò la figura dell'atleta in modo esaustivo e perfetto, ma rese solo l'immagine dell'atleta a riposo. L'artista moderno ha di fronte a sé la possibilità per una interpretazione completamente nuova e molte opere meravigliose possono essere realizzate, sia di scultura che di arte diretta, sia con la creazione riguardo lo sport di edifici e giardini, decorazioni di monumenti e fiere o processioni integrate in contesti armoniosi. accanto al fermo ideale che non smette di alimentare, il barone fa seguire i fatti. In poco tempo crea e sviluppa un'associazione nazionale francese per coordinare l'atletica, che si raduna per la prima volta nel 1889. Fonda una rivista dedicata al tema e inizia una fitta corrispondenza con il medico britannico William Penny Brooks, che da anni svolge la stessa attività del francese in Inghilterra. Nel 1892 l'associazione vanta già 62 società e 7.000 membri iscritti. A novembre dello stesso anno, in occasione della riunione annuale dell'associazione, per la prima volta afferma pubblicamente di voler far rivivere i giochi, ma la proposta, pur suscitando interesse, non va avanti. Mancano appoggi importanti e c'è ancora da lavorare per allargare lo sport ai dilettanti. L'occasione giusta arriverà 2 anni dopo. Signore e signori, l'Università della Sorbona di Parigi è lieta di ospitare l'annuale congresso dell'Unione delle Società Francesi degli Sport Atletici. Il congresso valuterà il rapporto di 2 commissioni, una sul dilettantismo e lo sport amatoriale e l'altra sulla rinascita dei giochi olimpici nell'era moderna. È in un'aula stipata dell'università francese più famosa che il sogno diventa realtà. Siamo alla fine del giugno del 1894. Accanto al barone francese e ad altri illustri uomini si staglia la sagoma fiera ed eloquente del letterato Dimitrios Vikelas. Qualche giorno prima, al Greco, era arrivato un invito a partecipare al congresso da parte dell'Associazione Panellenica di Ginnastica. Una richiesta piuttosto bizzarra, cui Vikelas inizialmente non dà troppo peso. Poi, spinto dall'inesauribile curiosità ed amici in comune, si reca a casa del barone per chiedere delucidazioni. È probabile che la chiacchierata abbia avuto un inizio lento, che il Greco sia entrato carico di diffidenza ma rispettoso, stringendo tra le mani tutto il suo orgoglio ellenico. È possibile che il barone si sia dilungato nel descrivere gli obiettivi e gli ideali che sono alla base del congresso. In fondo, sono obiettivi di una vita. È anche possibile che il francese abbia tentato di impressionare il Greco con una delle sue eloquenti dissertazioni. La cosa importante nella vita non è la vittoria, ma il lottare. Non è aver sconfitto, ma aver combattuto bene. Col diffondere questi principi noi prepareremo un'umanità più coraggiosa, più forte, più scrupolosa e più generosa. Quel che è certo è che tutti e due a un certo punto devono essersi resi conto di quello che avevano davanti. Il barone deve aver messo a fuoco il suo ospite, una figura in grado di spostare e influenzare persone e decisioni grazie alla sua straordinaria reputazione. Una persona di grande cultura, innamorata della Grecia e che avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di riportarla agli antichi splendori. Lo stesso Vikelas non può non aver colto nello sguardo e nelle parole del barone il fascino di un uomo che ha coltivato un sogno per una vita intera. Un sogno forte di ideali di libertà e uguaglianza e carico di quell'ambizione che lo rende un po' folle, proprio come gli eroi della letteratura. Ecco perché il 23 giugno del 1894 la proposta della Commissione sui Giochi Olimpici viene accettata tra l'entusiasmo generale, con una sola piccola differenza rispetto a quanto stabilito durante i lavori preparativi. I primi giochi si dovranno svolgere ad Atene e non a Parigi, cui toccheranno i successivi. È il simbolo del compromesso che ha unito questi due uomini così distanti fino a qualche giorno prima. Ora ci siamo davvero. Stanno per prendere vita i primi Giochi Olimpici dell'era moderna. Destini incrociati. Principi fondamentali dell'olimpismo. Articolo 6. Qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di un paese o una persona per motivi di razza, religione, politica, sesso o altro è incompatibile con l'appartenenza al movimento olimpico. Destini Incrociati è pronto a celebrare il rinnovato spirito di Olimpia e dei suoi giochi grazie alla caparbietà e alla lungimiranza di un barone francese, Pierre-Freddy de Coubertin, e al coraggio di un letterato greco, Dimitrios Vikelas, il cui cuore innamorato della propria terra non ha mai cessato di battere. Terminato il congresso che ne ha sancito la prossima realizzazione, per i due è tempo di preoccuparsi dell'organizzazione. L'appuntamento è ad Atene tra 2 anni, nel 1896. come per magia, la macchina olimpica si mette subito in moto. A Dimitrios Vikelas viene affidata la presidenza del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, i cui compiti erano già stati da tempo delineati dal barone. Il compito del Comitato Olimpico Internazionale è di fissare il luogo della celebrazione di ogni Olimpiade e di assicurare l'attinenza con i principi e le tradizioni che sono la base di questa celebrazione. In questa situazione, De Coubertin assume un ruolo di supervisore, lasciando al greco il compito di pianificare insieme alle autorità greche lo svolgimento dei giochi. C'è qualche difficoltà, come è normale che sia. La Germania conferma la sua partecipazione solo all'ultimo, pensando a una volontà del barone di tenerla fuori. Le autorità greche cercano di accaparrarsi l'organizzazione anche per gli anni successivi, intralciando i piani stabiliti e causando incertezza. Ma il tandem formato dai nostri due protagonisti tiene duro e finalmente il 6 aprile 1896 lo stadio Panatinaico di Atene dà il via alla cerimonia di apertura dei primi giochi olimpici moderni. 43 gare, 9 discipline, 241 partecipanti provenienti da 14 nazioni diverse. Queste sono le cifre che consacrano l'evento. Un successo insperato, il più grande evento sportivo mai realizzato nella storia. Il pubblico greco è entusiasta, il barone e Vikelas ce l'hanno fatta. Corpo e spirito hanno ritrovato equilibrio. Ora il mondo ha un nuovo punto di partenza e tanti traguardi da raggiungere. Le prime Olimpiadi dell'epoca moderna sono terminate, ma i suoi principi resistono ancora oggi. Principi fondamentali dell'olimpismo, settimo e ultimo articolo. L'appartenenza al movimento olimpico richiede il rispetto della Carta Olimpica e il riconoscimento da parte del Comitato Olimpico Internazionale. Dopo l'evento, il destino dei due protagonisti torna a separarsi. Dimitrios Vikelas subisce la perdita della moglie che muore poco dopo la fine dei giochi. Decide di lasciare la presidenza del CIO nelle mani di chi ne saprà fare buon uso, il barone De Coubertin. Per Dimitrios, la necessità di ritornare definitivamente a casa è insopprimibile. Si stabilisce così ad Atene, dove continua a promuovere iniziative per la cultura popolare con la fondazione della Società per la diffusione dei libri utili, senza tralasciare qualsiasi sforzo nel tentativo di aiutare la Grecia a raggiungere la definitiva indipendenza. Nel 1908, alla sua scomparsa, il paese gli renderà il giusto tributo. Per De Coubertin, il termine dei primi giochi è l'inizio di un'altra lunga avventura, quella del consolidamento dell'evento sportivo. Il barone utilizzerà gli anni seguenti per mettere a punto la macchina olimpica, cercando di mantenere intatto lo spirito che ne ha guidato la rinascita. Attraverso una lunga militanza nel CIO, il francese canterà e porterà la croce per anni, difendendo a spada tratta l'indipendenza del comitato, preservando il valore democratico e amatoriale dei giochi e restando fedele alla visione che da giovane gli aveva indicato la strada. La vita, come la lotta, è semplice. Un buon lottatore arretra, ma non abbandona il combattimento. Egli cede terreno, ma non si arrende mai. Se si fronteggia con l'impossibile, svolta e prosegue oltre. Se rimane senza fiato, egli riposa ed attende. Se è sbattuto fuori dalla competizione, incoraggia i suoi fratelli con le sue parole e la sua presenza. E quando ogni cosa attorno a lui crolla, la disperazione non entra nel suo cuore. And the boys, just the girls with the curls in their hair, while they shout to men who just sit away.